Benvenuti al nono episodio di La casa del ciliegio. Oggi parleremo di come la mindfulness possa essere una risorsa preziosa per bambini e adolescenti, aiutandoli a crescere in modo più equilibrato e consapevole. Se hai figli o lavori con i giovani, questo episodio ti offrirà strumenti pratici per introdurre la mindfulness nella loro vita. I bambini e gli adolescenti vivono in un mondo sempre più frenetico, dove lo stress, la pressione e le emozioni forti sono all'ordine del giorno. La mindfulness può aiutarli a gestire meglio le emozioni, a sviluppare la consapevolezza e a rispondere con maggiore calma alle difficoltà della vita. Per i più piccoli, possiamo iniziare con giochi consapevoli che li aiutino a concentrarsi sul respiro, sulle sensazioni del corpo e sul momento presente. Un esempio è il gioco della respirazione del palloncino, dove i bambini immaginano di gonfiare un palloncino mentre respirano profondamente. Per gli adolescenti, la mindfulness può essere un ottimo strumento per gestire lo stress scolastico, l'ansia sociale e le emozioni difficili, introducendo brevi meditazioni o attività di consapevolezza nella loro routine quotidiana, possiamo assolutamente aiutarli a sviluppare maggiore autoregolazione emotiva. Infine, se desideri imparare come introdurre la mindfulness nella vita dei tuoi figli o dei ragazzi con cui lavori, ti invito a partecipare ai miei corsi. Nel prossimo episodio parleremo di mindfulness e relazioni, esplorando come la consapevolezza può migliorare le nostre relazioni interpersonali. Non perderlo!